lasciato tutta Foggia, dalla famiglia alla mia reggia, il sole per la pioggia, e tutto questo non mi scoraggia. Io terrone nella nebbia, non volgo l'altra guancia, come vuole la Bibbia. Ho perso amici per infamie traditrici, rinunciando ai genitori, per troie traditori. Indosso un abito, per te i panni del fallito, senti chi parla, chi mi ha tradito. Sai qual è il mio culto? Piando fiori nell'asfalto, come li ho piantati giù nel deserto. Tutti mi credete pazzo, come Esa. Coltivo dove tutti han detto che non cresce un cazzo. Rimango il king del mio regno, com'ero il protagonista d'ogni mio sogno. Non sai chi sono, mi presento, sono nessuno. Mi piace e suono buono dove incastro rime che fanno frastuono. Sono quello che non capisce un H, che ha regalato la sua schiena alla doppia H. Quello che su questa traccia spala quindali di merda sulla tua faccia. In questo mondo dove tutto fa brodo, io cerco la perfezione lavorando sodo. Voglio il meglio dalla vita non prendendo scarti, intanto prova a scriverlo su questi quattro quadri. È la mia volta ed è la prima nella doppia H. Ho la roba spacca, ho la roba spacca. Cerco la fase successiva, the next level. La mia storia è esclusiva, the next jewel. Sono Ness, a.k.a. Gioiello, pronto per il prossimo livello. Yes I am, yes I can, con Obama. La mia rima è nera, o si odia o si ama. È la mia prima volta e non si scorda mai. È come fare sesso, ma di questo che ne sai? Bisogna farlo bene per lasciare il segno. È come un bel tattoo quando è bello il disegno. È la mia nona sinfonia, un capolavoro. È scavando dentro me che trovo il tesoro. La rima che accompagna ogni mia giornata, è nella testa come un ago nella pelle. Sarà tatuata come Ale Franz, buona la prima. Come prima volta, buona la rima. La penna che uso non è tempestata di diamanti, ma lascio gemme su di un foglio per gli amanti. Sono tempi di crisi, tempi cupi. Io mi metto in gioco a quest'età come pochi. È il momento di tirare fuori quello che ho dentro, finché dentro non muori. Io non mi arrendo. È la mia volta ed è la prima nella doppia H. Ho la roba spacca, ho la roba spacca. Cerco la fase successiva, the next level. La mia storia è esclusiva, the next jewel. Sono Ness, a.k.a. Gioiello, pronto per il prossimo livello. Yes I am, yes I can, con Obama. La mia rima è nera, o si odia o si no. A chi mi chiede com'è nata la passione per l'hip hop, io gli rispondo che è stato per me come uno shock. La scossa che mi ha riacceso dal di dentro, l'energia che aspettavo da così tanto tempo. È una passione che ti prende al cuore, un fiume in piena. Io l'ho fatta mia, la porto sulla schiena. Mi sentivo spento, vagando nell'oscurità. Poi quelle rime hanno suonato ed ora sono qua. I beats su cui scorrevano in piena complicità, le prime tag sulle mura della mia città. Il pop è la mia droga, ci morirò di overdose, ascoltandola a tutto volume nel mio impianto boss. E non posso disintossicarmi, la rima è la cura, l'unica che può aiutarmi. Per quanto sia improbabile, raccolgo il guanto della sfida. Questa è la primavera, missione suicida. È la mia volta ed è la prima nella doppia H. Ho la roba spacca, ho la roba spacca. Cerco la fase successiva, the next level. La mia storia è esclusiva, the next jewel. Sono Ness, a.k.a. Gioiello, pronto per il prossimo livello. Yes I am, yes I can, con Obama. La mia rima è nera, o si odia o si ama.